17. Nelle foreste attorno a Canajoharie, mirtillo e fragola erano maturati in anticipo e le donne uscivano all'alba per raccoglierli freschi di rugiada. Tempo rubato a lavori più utili e un cesto di bacche come bottino, buono giusto per addolcire la lingua a una famiglia di bocche affamate. Eppure, nessuno avrebbe rinunciato ai sapori del bosco, rito che iniziava l'estate, garanzia di ordine e bellezza. Nell'ultimo anno la valle si era spalancata su un baratro, terra di conquista per una nuova nazione, ma i piccoli frutti profumavano ancora e tappezzavano l'orlo del precipizio. Dolci come speranze, pensò Molly, rossi e neri come la guerra. Forse era per questo che la grande visione di 2 estati prima era tornata, limpida come l'aria dopo la prima neve. Il funerale di Sir William, la terra troppo dura per essere scavata, la bara che scivolava sulle acque, verso la sorgente. Secondo le altre matrone, era una profezia di quanto accadeva. Ciò che va controcorrente è destinato a ritornare e capo grandi affari sarebbe tornato nei panni della sua discendenza. Occorreva prepararsi ad accoglierlo. Così Molly aveva deciso di restare, anche se Joseph l'aveva invitata a raggiungerlo. Così Anne poteva mangiare mirtilli con le labbra cerchiate di viola e gli occhi accesi di novità. Spinse i 2 figli piccoli tra cespugli e macchie di sole. Anne e George si accomodarono in ginocchio e presero a mangiare senza tregua. Molly ne approfittò per allontanarsi a distanza di voce fino a una roccia di granito nascosta dagli alberi. Si augurò che il ragazzo non tardasse. Di certo, l'assenza era già stata notata. Da tempo i Whig la spiavano, controllavano i suoi spostamenti, le persone che entravano e uscivano dall'emporio e da casa sua. Ma non esistevano occhi capaci di frugarle nei sogni, infilarsi sotto ogni sasso del bosco, perquisire uno a uno i clienti dell'emporio. Le spie ribelli guardavano senza vedere e Molly, sorvegliata stretta, continuava a smistare notizie, informazioni, dispacci. Nell'ultimo messaggio, Joseph la informava della grande offensiva pianificata dagli inglesi. L'attacco alla colonia di New York sarebbe giunto da 2 lati, per stringere i ribelli in una morsa. Mentre il generale Burgoyne scendeva dal lato Champlain, Joseph si trovava al seguito delle truppe del colonnello Sandlager, che da 2 settimane tenevano sotto assedio Fort Stanwix. La situazione era di stallo, ma presto o tardi i ribelli si sarebbero arresi. Quello che Joseph non sapeva era che la notizia aveva viaggiato lungo il fiume Mohawk, fino a raggiungere gli insediamenti dei coloni. Quella notte il generale Herkimer era partito alla testa di 700 uomini della milizia ribelle in direzione del forte, per portare soccorso agli assediati. La colonna s'era affidata a guide indiane per evitare il fiume e non farsi notare. L'unica via secondaria per un contingente così numeroso era l'antico sentiero Oneida che passava dal villaggio di Oriskany. La marcia sarebbe stata molto lenta e un corriere veloce poteva precedere i ribelli di almeno 3 giorni. Questo avrebbe dato a Joseph il tempo sufficiente per studiare una contromossa. Molly colse un fruscio alle sue spalle e si fermò, in attesa. Il giovane spuntò dal bosco e le sorrise. «Dio ti protegga, Degon Guadonti!» La donna si avvicinò e gli consegnò la lettera. Poche righe vergate quella mattina, che il ragazzo infilò sotto la camicia. «Devi raggiungere Thayendanegea. Corri, senza fermarti. Corri fino a scoppiare, se necessario!» L'immagine del cadavere deturpato di Samuel Waterbridge le attraversò la mente, ma la scacciò subito e strinse il braccio del ragazzo. «Torna, sano e salvo!» Lo guardò sparire rapido tra gli alberi. Si affrettò a riempire il cesto di bacche e richiamò i figli per tornare al villaggio. Mentre camminava lungo il sentiero, rivide Nicholas Herkimer nel salotto di Johnson Hall, intento a parlare con Sir William e sorseggiare tenero. Poi lo rivide più vecchio, quando era passato dall'emporio l'ultima volta, per convincerla a tenere il suo popolo fuori dalla guerra. «Pare che Benjamin Franklin l'abbia presa da voi irochesi, l'idea di una confederazione», le aveva sorriso il tedesco. «Se il congresso volesse rubarci solo le idee», aveva risposto Molly, «l'ascia di guerra dei Mohawk sarebbe ancora sottoterra». Per un attimo sperò che suo fratello e Nicholas Herkimer potessero ancora evitarsi, ma sapeva che era troppo tardi. La valle non sarebbe mai più riuscita ad accogliere entrambi. Il mondo di Warraghyllegay era mutato per sempre. Guardò le proprie mani e quelle dei figli tinte dal succo delle bacche. Ebbe paura. Visioni di sangue che arrossava il fiume e inondava la foresta la investirono con forza. Prese a mormorare una preghiera tra le labbra. Pregò per Joseph. Pregò il padrone della vita di concedergli la vittoria sui nemici.